Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Asintomatici, dopo le dichiarazioni dell'OMS si riaccende il dibattito. Obiettivo Salute, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerca Mario Negri. Professor Remuzzi, buongiorno. Partiamo dai fatti. Sì, i fatti sono che la dottoressa Van Kerkhove dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riportato dati in cui erano stati seguiti dei casi asintomatici, tutti i loro contatti molto accuratamente, e hanno visto che la trasmissione del virus, la contagiosità, era molto rara. Il secondo è che dobbiamo intenderci bene su che cosa consideriamo per asintomatici, perché certe persone che sono infette, cioè hanno il tampone positivo, non mostrano mai sintomi. Questi sono veramente asintomatici. Altri sono uguali ai primi, ma avranno sintomi più avanti, quindi nel momento in cui si fa il tampone sono positivi, non hanno niente, li consideriamo asintomatici, poi avranno sintomi più avanti. Questi, anche prima di avere i sintomi, possono diffondere il virus, perché evidentemente ne hanno lì una concentrazione più alta dei veramente asintomatici. Adesso i medici li chiamano presintomatici. Quindi quando parliamo di asintomatici non è così semplice dire l'OMS sbaglia o sbagliano i virologi che pensano che gli asintomatici trasmettano la malattia. Probabilmente non sbaglia nessuno dei due, il problema è più complesso. Il lavoro più bello è stato fatto su Annals of Internal Medicine, che ha fatto vedere che il 40-45% di coloro che sono infetti, che hanno il tampone positivo, in realtà non hanno dei sintomi. Però questo lavoro conclude dicendo che tutti gli studi che sono fatti in questo campo, tutti, sono imperfetti. Allora, sulla base di studi, nessuno dei quali è perfetto, nessuno può concludere nulla di certo. Professor Remuzzi, ma al di là di queste posizioni, qual è il messaggio che ci possiamo portare a casa nella nostra quotidianità? Nella nostra quotidianità ci possiamo portare a casa il messaggio che se noi, finché non abbiamo risolto questo problema, consideriamo tutti come persone potenzialmente infette, cioè mascherina, lavarsi le mani e distanza di sicurezza, siamo tranquilli. Quello che è sicuro è che noi non sappiamo quanto gli asintomatici in realtà trasmettono il contagio, e la cosa corretta sarebbe quella di dire semplicemente questo. La storia insegna, professor Remuzzi, che tutte le epidemie si esauriscono. Succederà così anche per il Covid? In che tempi prevede? Guardi, un lavoro bellissimo di Nature dice che in 2 o 3 anni la maggior parte delle persone del mondo saranno infettate dal virus in qualche modo. Non che tutti si ammaleranno, perché sappiamo che il 40-50% per esempio in questo lavoro di Annals of Internal Medicine sono asintomatici, ma avranno incontrato il virus. A quel punto lì il virus diventerà come uno dei tanti virus, si adatterà all'uomo e diventerà come uno dei tanti virus del raffreddore, che sono poi peraltro coronavirus. Qualcuno sostiene che bisogna arrivare al 2024 perché questo succeda, però non succederà contemporaneamente dappertutto. Io penso che l'Italia ha già sviluppato un certo tipo di immunità, non dappertutto. A Bergamo però siamo tra il 30 e il 40% delle persone che ha un test sierologico positivo, quindi moltissimi hanno incontrato il virus e il virus avrà molta fatica a diffondersi d'ora in poi. Certo, in altre parti del mondo, in Africa o nell'America Latina, le cose iniziano adesso e stanno andando molto diversamente. Professor Remuzzi, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie, grazie. Bene, per oggi è tutto, vi aspetto come sempre sulle pagine Facebook di Obiettivo Salute per i nostri incontri a tu per tu. Oggi insieme a noi il dottor Angiolini, con cui parliamo di mal di schiena, posture e tanto altro. Vi aspetto, non mancate. Una buona giornata da Nicoletta.